Carbone, un nome, una garanzia. Il caffè d'orzo va bene, professore? Ci si può fare la doccia. Però mettetevi la mano sul fuoco. Sì, sul fuoco, sul cuore. Ma sul fuoco non ce la metto, che ve la mettiate. Io ho la vaporiera a strati. Le piace? È fantastico. Come si dice, un classico andato in fumo. Esatto. Noi tutto il giorno, Nicoletta, sopra le nostre sudate carte. Come possiamo farcela? Di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Disse che a Milano faceva freddo, che c'era la nebbia. E beh, e dove sta questa nebbia? Ma scusa, come disse Mezzacarne? Quando c'è la nebbia, non si vede. La nebbia c'è e non si vede. E non si tocca. E intanto io sento caldo. Ma non dire sciocchezze, a Milano fa freddo. Eppure io sento caldo. E sarà un freddo caldo, che vuoi che dici? Un freddo caldo. Andiamo all'albergo, io non ne posso più, mi sento morire dal caldo. Andiamo all'albergo, così di questo caldo io non lo sento. Ah, non lo sento? No, a Milano non può fare caldo. Giustamente, per Totò a Milano è impossibile che faccia caldo, e noi invece vi possiamo assicurare che non è così. Nei giorni scorsi l'abbiamo sperimentato direttamente, oggi un po' meglio, ma può far caldo, e come se può far caldo anche a Milano. Deborah, d'altra parte, non solo a Milano, molte zone d'Italia hanno già vissuto giorni a dir poco bollenti in questa prima parte di giugno, e noi abbiamo ceduto in redazione, stiamo al fresco, magari però a casa ci siamo lasciati tentare e abbiamo acceso l'aria condizionata. Io l'ho fatto, però a spot, solamente qualche volta. Anch'io un paio di sere fa l'ho acceso, anzi non settimana scorsa che non ero qua, ma quella precedente, avendo delle persone a casa. Magari c'è qualcuno che il caldo non lo tollera, per cui deve essere un po' ospitale e la devo accendere per forza. A cosa ci stiamo riferendo stamattina? All'aria condizionata, e quindi al condizionatore. Per alcuni unica salvezza dall'afa cittadina, e non solo, e unica possibilità per dormire un po' di sonni tranquilli anche quando il termometro teoricamente non lo permetterebbe. E come avrete capito, oggi parliamo di aria condizionata dal punto di vista del cuore e da quello dei denari. E vi abbiamo chiesto subito di intervenire al nostro numero verde o di scrivere messaggi per dirci se siete pro o contro l'aria condizionata, se la utilizzate. Ci arrivano già i messaggi. Sì. Sergio da Pavia ci scrive a favore, ma come deumidificatore, mentre Patrizio, dato che parleremo di aria condizionata anche in macchina, ci scrive in macchina finestrini aperti. E se la donna mi si spettina è ancora più bella. Perché non ci sono io, perché sennò vedrebbe. Comunque c'è chi ce l'ha e ne abusa, trasformando la casa in una vera e propria grotta di ghiaccio. E poi c'è chi invece non ce l'ha e se la sogna di notte mentre si rigira nel letto cercando un po' di quel refolino d'aria. Tutto sudacciato. Allora, lo sappiamo bene, l'aria condizionata è croce delizia della stagione estiva appena iniziata. Oggi allora con i nostri esperti cercheremo di capire come utilizzarla nel modo migliore in auto come a casa. Avete pulito i filtri? Avete chiamato il signore per fare il controllo? Ecco, l'avete trovato soprattutto, perché quando si chiama uno dice: signora, mi chiama adesso, 800 24 00 24, diteci se la utilizzate, se vi piacerebbe utilizzarla, quanto la tenete accese, a che temperatura e quanto avete anche speso per comprare il condizionatore, perché qua c'è la donna di denari che ci fa i conti. Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Iniziamo dalla pagina di denari, Nicoletta ride, poi vi raccontiamo perché. Perché l'aria condizionata ha i suoi benefici, naturalmente ha i suoi costi che bisogna saper gestire al meglio. Ne parliamo con il nostro primo ospite di oggi, a cui diamo subito il benvenuto, il buongiorno, Luca Falco, presidente dei bruciatoristi manutentori di Confartigianato. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte e due, grazie di avermi invitato. Lo abbiamo ribattezzato il nostro uomo del cambio di stagione, Luca Falco, d'altronde molto simpatico e sta al gioco. Sì, lo inviteremo anche quando dovremo cambiare proprio, fare il cambio degli armadi. Cambio degli armadi e poi naturalmente tra settembre e ottobre la pulizia della caldaia. E allora, Falco, parleremo di quanto costa acquistare e farsi installare in casa un buon condizionatore, ma anche di quanto possa pesare sulla nostra bolletta. 800 24 00 24, dateci la vostra cifra se in estate mandate, come si suol dire, a manetta il condizionatore, poi quando arriva la bolletta della luce sono dolori. In quante stanze l'avete messo il condizionatore, quanto vi è costato? Naturalmente scriveteci anche se volete i vostri messaggi al 349 238 6666. Ci sono anche Facebook e Twitter. Falco, ma parlarne adesso dell'acquisto di un condizionatore non è già un po' tardi? Insomma, c'è chi pensa adesso di magari di rischiare a fare un acquisto magari dettato dall'urgenza. Quale sarebbe il periodo migliore per muoversi? Diciamolo a chi magari decide di resistere ancora per quest'anno, ma per la prossima estate vorrà attrezzarsi. Allora, domanda difficile. Intanto purtroppo ci si muove sempre in ritardo, ci si muove quando si sente il caldo torrido o ci si muove quando si sente il freddo siberiano. Sicuramente partire prima, partire in anticipo permette di poter scegliere la macchina, l'impianto di climatizzazione che meglio si adatta alle esigenze della propria abitazione. La fretta non è mai una buona consigliera. Anzi, è chiaro che se uno però se ne è scordato, ha avuto dei problemi per cui non lo poteva fare, perché un impianto buono di aria condizionata ha anche un suo costo e conviene affidarsi al proprio installatore di fiducia. Il periodo migliore sarebbe marzo, quando si è terminato il periodo del caldo, per cui gli operatori sono un attimino più tranquilli per seguire al meglio il proprio cliente. E perché poi si può negoziare al meglio anche sul prezzo, magari, no? Si tratta fino allo sfinimento, guarda, me lo metti così, allora se no adesso niente. Io penserò alla caldaia. È uscita l'anima denari proprio. No, guardi, allora facciamolo subito questo benedetto preventivo, Falco, no? Sì. Per chi non rinuncia all'idea di acquistarlo adesso e anche per chi invece si muove in anticipo. C'è una cifra ragionevole da spendere? C'è un gap anche fra, come dire, l'acquisto last minute e invece quello preventivo? Allora, di solito se uno acquista l'impianto prima riesce ad ottenere qualche sconto, perché spesso le aziende effettuano un prestagionale, ovvero prendono magari in magazzino alcune macchine tipo che possono avvicinarsi alla richiesta media del mercato, per cui si riesce anche ad ottenere dei prezzi migliori. E c'è una fascia di prezzo che secondo me difficilmente si dovrebbe scendere, perché è relativa alla qualità del prodotto e alla qualità dell'installazione, per cui io posso dire che per climatizzare una singola stanza installando un prodotto di qualità difficilmente si riesce a scendere sotto, compreso l'installazione, sotto i 900-1000 euro. Sotto è difficile, perché troviamo magari macchine che consumano tanto, macchine magari di passata generazione, per cui non è che non si riescano a trovare e non è che non funzionino. Funzionano, ma bisogna vedere la qualità nell'uso e nel tempo. Diciamo che qui funzionerebbe molto bene il detto di Nicoletta: chi più spende meglio spende. Quindi magari investiamo un pochino di più. E soprattutto chi prima spende meglio spende. E poi c'è l'installazione e l'installatore. A che tipo di professionista rivolgersi? Come riconoscerlo? Lo diciamo ogni anno, in estate bisogna fare attenzione, perché a volte quando le persone di fiducia sono in ferie e ci si rivolge a chi non conosciamo, c'è il rischio di avere bruttissime sorprese. In questo caso, appunto, quanto costa proprio, come dire, la voce nuda dell'installazione, Falco? Il professionista quanto richiede? Allora, un'installazione che non sia troppo complicata non riesce a scendere sotto i 400-500 euro. E ci sono degli operatori che installano anche a 300-250 euro, ma voglio ricordare a tutti che è entrata in vigore il patentino per i gas fluorurati. Ah. E gli operatori certificati si trovano sul sito www.fgas.it. Quindi quando arrivano dobbiamo chiedere se hanno questo patentino. Come si chiama? Ce lo ribadisce? Il patentino F-Gas è un F-Gas, F-Gas Firenze Gas, e per i gas fluorurati, F sta per appunto fluorurati. È un patentino che è una direttiva europea che abbiamo recepito in Italia, che obbliga tutti gli operatori ad avere questo patentino, che oltretutto è anche un costo importante, ma perché serve a far sì che le aziende che utilizzano personale certificato gestiscano il gas in modo pulito senza inquinare. E questo purtroppo ha un costo che viene spalmato e distribuito sulle installazioni, ma è un costo importante. Immagino. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le chiamate degli ascoltatori. Ci sono anche già dei messaggi tipo al 349 238 6666: l'aria condizionata fa male a chi non ce l'ha. Allora, e Max qua... da Corbetta invece ci scrive: io per il caldo ho chiamato il signore, perché sì, io ho chiesto, l'avete trovato il signore che viene a farvi i controlli? Non avevo capito. Del vostro apparecchio, della vostra macchina, del vostro condizionatore. Lui ha scritto che per il caldo ha chiamato il signore, ma quello più in alto, e gli ha chiesto pietà. E allora, poi a proposito, diciamo, che del commento dell'ascoltatore che dice l'aria condizionata fa male a chi non ce l'ha, qua potremmo aprire un dibattito, perché per la verità c'è chi proprio non la sopporta, c'è chi la manda a mille, tipo nei negozi americani, che quando si entra tutti sudati ci si ammala, come dire, seduta stante. E poi magari parleremo, anzi no, magari parleremo proprio anche di tutto questo, no, giusto Nicoletta? Assolutamente sì. Il peso sulla bolletta non dipende soltanto da dove posizioniamo il termostato, tra poco ci arriviamo, e da quanto lo usiamo, ma anche dal tipo di condizionatore che scegliamo. Allora, Falco, andiamo ad elencare, e naturalmente ce lo deve spiegare in termini semplici anche per me, che magari, che ne so, fra qualche anno dovessi aver bisogno di cambiare il mio impianto. Andiamo ad elencare i principali modelli fra cui scegliere e in base a quali criteri basare la nostra scelta. È ovvio che il primo criterio è quello della dimensione dell'abitazione. Assolutamente sì. Allora, intanto installare un impianto d'aria condizionata non può prescindere da un sopralluogo, perché proprio l'impianto si adatta all'ambiente in cui va installato, soprattutto alla posizione anche del climatizzatore, perché bisogna posizionarlo in modo che non vada a dar fastidio a chi abita e chi fruisce della stanza. Quindi questa è una tra le cose più importanti. Però ci sono le varie macchine, intanto si può pensare a utilizzare una macchina che sia inverter. Inverter non significa che inverte tra caldo e freddo, ma significa che adatta i consumi in funzione di quanto è caldo l'ambiente. Per cui sono macchine che riescono a consumare pochissimo, anche il 30% in meno, è un consumo importante. Macchine intelligenti. Macchine intelligenti. Allora, intanto bisogna andare su una macchina in classe A di sicuro. E hanno dei consumi che possono andare da 280 watt, 200 watt, che sono qualche lampadina, al kilowatt, e proprio si adeguano, sono scorrevoli, cioè più fa caldo più consumano, meno fa caldo certo, meno consumano. E poi ecco un altro consiglio, e quello poi magari ci arriviamo, adesso a parte stiamo facendo il vademecum di come scegliere il modello, ricordiamo sempre di non impostare il condizionatore con una differenza di temperatura radicale rispetto a quella esterna. Se fuori ci sono 32 gradi è inutile che in casa lo mettiamo a 18, perché qua se no la bolletta piange, no Falco? No, ma la bolletta piange la nostra salute. Bravo, viene nel mio il nostro uomo del cambio di stagione. Esatto. Dunque, prima volevo dirlo, non chiamatemi per il cambio degli armadi, mi avete anticipato, ma non vengo. Lo so, allora, ma noi la invitiamo ugualmente. La chiamiamo per fare la manutenzione degli impianti, condizionatore e caldaia e caldaietta. E poi tanto dopo, che c'è lì un consiglio, glielo chiediamo. Certo. Allora, abbiamo allora Cleo, certo, dalla provincia di Venezia, ci chiama all'800 24 00 24, un numero verde per stare al fresco. Cleo, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. Ci dica. Sì, il mio dubbio riguardava l'ambiente di lavoro, perché io lavoro in un'agenzia di scommesse e ci sono delle lotte furibonde con i clienti che hanno sempre caldo. Noi invece che lavoriamo lì soffriamo il freddo con l'aria condizionata, allora cerchiamo una via di mezzo, ma i clienti si lamentano sempre. Mi chiedevo che cosa prevede la legge, cioè nel senso se va tutelata la salute dei lavoratori o se il benessere dei clienti. Allora, caso, qua ci coglie un attimo impreparati, ma credo che ci siano delle regole di buon senso che valgono come per l'inverno. Chiaramente non è che si può stare, ci sono degli ambienti dove, vero Nicoletta, anche qua da noi capita, il sì, caldo è veramente molto alto, non tutti lo sopportano, e anche lì può essere, come dire, motivo per malessere, se vogliamo, no? Assolutamente. Immagino che ci siano, non so se delle regole di buon senso. Falco, sulla normativa per i luoghi pubblici ci può aiutare? Ci può essere un limite oltre il quale non si deve andare per appunto un ambiente refrigerato, diciamo? Allora, adesso a memoria la temperatura non me la ricordo, però esiste il DPR 74 del 2012 che prevede ai fini del risparmio energetico le temperature che devono essere mantenute negli ambienti sia per la climatizzazione invernale che estiva. L'importante è che abbiamo dato un riferimento legislativo, lo ribadiamo, Falco, così almeno la nostra ascoltatrice Cleo può andare a recuperare. DPR? 74 dal 2012. Perfetto, è anche recentissimo. Benissimo, quindi Cleo, solo appiccichi lì sulla parete dell'agenzia di scommesse e poi vediamo appunto se magari può aver torto anche lei, può, no? E certo, perché noi comunque, sai, il caldo, il freddo, c'è una percezione anche, esatto, soggettiva, individuale, ecco. È vero. E allora vorrei raccontare a Luca Falco il consiglio di Luigi che ci manda da Massa Carrara. Un sistema semplicissimo per avere un po' di frescura a letto. Luca, è pronto? Prendete due ghiaccioli, di quelli che si congelano in freezer quando si va in gita. Li avvolgete in un asciugamano piccolo e ve li mettete sul cuscino spostandoli ogni tanto, insomma il contrario della boule calda. Ci ha mai provato lei? Io non ho mai provato questo tipo di tecnologia. È vero che però quando abbiamo caldo il cuscino si riscalda, infatti è quando io caldo continuo a girare di qua. Brava, e di là anch'io. Il cuscino, voi dov'è che sentite il caldo? Nel cuscino. 800 24 00 24. Falco, vorrei ricordare una cosa importante, che quando si parla di climatizzazione non si parla però solo di raffreddamento, perché il solo raffreddare comporterebbe un aumento dell'umidità ambiente e questo oltretutto non fa bene alla nostra salute. Per cui raffreddare la zona cervicale con dei ghiacci in realtà non credo che faccia così bene, perché credo che porti un accumulo di umidità, perché magari non si suda, ma l'umidità condensa sempre nel punto più freddo. Quindi è importante, parlando di ambiente, che ci sia un certo range di temperatura tra dentro e fuori, che non deve essere esagerato, perché è importante non tanto abbassare la temperatura ambiente, cioè non ha senso portare un impianto aria condizionata, come dicevamo, a 18 gradi. È importante abbassare l'umidità. Certo. L'umidità dell'ambiente, tenendo magari l'impianto acceso per più tempo alla minima velocità e a potenze più basse. In questo modo si mantiene magari anche solo una differenza tra dentro e fuori di 2-3 gradi, quindi ci permette di entrare e uscire senza avere i colpi di calore o i colpi di freddo. Ma abbiamo un ambiente sano e difficilmente crea problemi, anzi, si crea benessere. Intanto si è creata un po' la naturale discussione sul tema del costo dell'installazione, c'è chi contesta questi 400 euro, io li confermo perché abbiamo ristrutturato praticamente la parete esterna della mia abitazione, per cui ho dovuto smontare il motore che era allestito appunto sul balcone e poi rimontarlo. Per non far nulla me ne sono andati appunto 400, per cui è evidente che il costo generico per l'installazione è proprio questo, per non parlare naturalmente chi ha speso meno senza farsi rilasciare la documentazione fiscale. Io qua, caro Michele, anche se lei si chiama come mio nipote, le tiro le orecchie e le bacchetto le mani. 800 24 00 24. Cara Nicoletta, qualora tu avessi in mente di rinnovare il tuo impianto in casa, devi sapere che il fisco è amico e ti viene incontro. Sei contenta? E ci vuole mettere al fresco. Esatto, no, anche se qualche volta questo concetto è interpretato diversamente. Allora, se decidiamo di acquistare un condizionatore, magari ci pensiamo proprio quando stiamo ristrutturando casa, c'è la possibilità. Sarebbe una buona idea, no? Esatto. Perché poi comunque se no ti interrompono. Esatto, quindi bisogna farlo questo lavoro quando ci sono le condizioni, poi magari c'è anche la possibilità di conferire un pochino di valore, no, all'abitazione, qualora un domani la dobbiamo rivendere. Abbiamo la possibilità di usufruire dei bonus fiscali, di cui abbiamo parlato spesso, anche qui a Cuore Denari, un po' di agevolazioni non possono che rinfrescare anche un po' le nostre finanze. Buongiorno Luca De Stefani, dottore commercialista esperto di temi fiscali per il Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, subito una rapida carrellata delle opportunità che si possono cogliere dal punto di vista fiscale e come fare per coglierle se appunto installiamo il condizionatore nella nostra abitazione. De Stefani. Sì, allora è possibile beneficiare di una detrazione del 50%, quindi un sconto dalle tasse, dall'IRPEF che si va a pagare con il modello unico o con il modello 730, la cui scadenza, ricordiamolo, è domani per la consegna al CAFO, al commercialista. Quindi possiamo detrarre il 50% per le spese per l'acquisto e l'installazione di condizionatori d'aria estiva, a patto che abbiano però una pompa di calore, quindi che servono anche per il riscaldamento invernale. In questo caso possiamo avere questo bonus, basta fare un bonifico bancario con la legge specifica agevolativa, che è l'articolo 16 bis del TUIR, e poi l'anno successivo con la ricevuta è possibile detrarre questo costo. Se poi il nostro condizionatore ha la pompa di calore particolarmente efficiente e quindi andiamo a rispettare i requisiti, diamo un'altra normativa, l'allegato I del decreto ministeriale 11 marzo del 2008, se in questo caso appunto rientra tra questi pompe di calore super efficienti e se comunque sostituiamo l'impianto, l'intero impianto di condizionamento, quindi non il singolo radiatore ma tutti i radiatori della casa, in questo caso possiamo avere anche il bonus del 65%. Ecco, caspita, ottimo, grazie. Grazie questa a Luca De Stefani, notizia, che salutiamo, per aver fatto il riepilogo dell'incentivo fiscale per il risparmio energetico appunto per chi sta meditando su questo acquisto ed è in giro per preventivi. 800 24 00 24 per continuare a fare le vostre domande sul tema condizionatore ma anche salute con l'aria condizionata. Attenzione alla gola, attenzione alla gola, al colpo della strega, al raffreddore. Ah, qua che bella lista, perché sì, è un fattore di rischio importante, se non la utilizziamo bene ne paghiamo il conto, ecco, non qua, solamente in termini di denari ma anche, esatto, di salute, malesseri. Cuore e denari. Le meraviglie in questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto. E se per caso dentro il caos ti avessi perso, avrei avvertito un forte senso di risolto, un grande vuoto che mi avrebbe spinto fino al confine. Demonizzata da molti, adorata da tanti, oggi stiamo parlando dell'aria condizionata. Chi è favorevole al suo utilizzo loda il suo potere rinfrescante, chi invece favorevole non lo è, e generalmente sono le donne, no? Deborah, dimmi tu se, sì, ti sembra. È vero, no, devo dire che io sono infastidita. Quando ce vo, ce vo. Un po' di rinfresco. Ma siamo soprattutto noi donne a sottolinearne i possibili rischi per la salute. Infatti, se utilizzata nel modo sbagliato, l'aria condizionata ci presenta il conto non solo per la bolletta, il classico colpo della strega, mal di testa, torcicollo, ma anche mal di gola, tosse e nei casi più seri la bronchite. Insomma, l'aria condizionata, care amiche e cari amici, non è per tutti e sicuramente se lo ricorderà bene Giovanotti, che qualche settimana fa l'ha scritto proprio lui su Facebook, è finito in ospedale proprio per colpa dell'aria condizionata. E voi? A voi come sta andando? State già facendo i conti in generale a 360, come potremmo dire, no? Col vostro portafoglio e con la vostra salute, e in particolare col mal di gola o con un raspino un po' fastidioso? 800 24 00 24 degli effetti dell'aria condizionata sulla salute, ne parleremo tra poco, e soprattutto con il dottor Andrea Franzetti, che è una vecchia conoscenza di Essere Benessere di Cuore e Denari, è primario di otorino laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Salutiamolo. È venuto anche prima. E d'altronde, quando ci sono due donne irresistibili, come si fa? Non è riuscita a resistere. È venuto a controllare che temperatura ci fosse qua dentro e a fare il test alle nostre gole, giusto? È più o meno sì. Allora, pronti con il domandone del dottor Franzetti, esatto, perché ormai lui ci ha abituato a questo quizzone. E piace molto ai nostri ascoltatori il quizzone. Io devo dire, come premessa, che in quanto uomo adoro l'aria condizionata. Però... Ma d'altronde voi sempre poveri, in giacca e cravatta, tutti chiusi però, fin qua. Però le donne in questo caso hanno ragione a fare le sottolineature che avete fatto. Vedi, lui dà un colpo alla botte e l'altra al cerchio, così li ha accontentati tutte e due. No, ci sono tante cose da dire nel rapporto aria condizionata salute, ma partiamo dal quizzettone. Dai. Allora, la domanda è questa. L'effetto dell'aria condizionata, sì, sul naso può portare tre effetti, di cui uno è vero e due sono meno veri o secondari. Il verissimo. Primo effetto. Siccome nel naso ci sono i turbinati, che sono i famosi palloncini di cui parliamo sempre, l'aria condizionata provoca una vasocostrizione, perché c'è freddo, i turbinati si restringono e il naso si apre e quindi uno respira meglio. Questa è la risposta 1. Risposta 2. Nel naso ci sono tanti peluzzi. Sì. L'aria condizionata col freddo li fa drizzare tutti. Siccome i peluzzi sono collegati alla secrezione del naso, aumenta la secrezione del naso. E quindi? Quindi il naso tende a colare di più. Risposta numero 3. Il naso ha una sua umidità all'interno. Quando questa umidità viene alterata in maniera eccessiva, cioè viene reso troppo secco dall'aria condizionata, non sente più gli odori. 1, 2, 3, 1. Allora, risposta numero 1 era il naso, il naso che si apre e respira meglio. 2, il naso di cola. 3, non sente più gli odori. 800 24 00 24. Ci penseremo strada facendo. No, diciamolo anche che io e te non abbiamo le risposte e siamo sottoposte all'interrogazione. No, perlomeno io non ce le ho. No, faccio finta di non averle neanche io. Va? Io invece sto cercando di capire quali dei tre effetti mi provoca l'aria condizionata e ho già ben capito qual è. Allora, e noi abbiamo i nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Io andrei al 6, perché siccome che abbiamo parlato di aria condizionata che fa litigare moglie e marito, in realtà le liti si scatenano anche in altri ambiti, nel nucleo familiare. Allora ce lo racconta Giulio da Udine. Giulio, buongiorno. Buongiorno. Sì, praticamente volevo dire che io ho 26 anni e sì, i miei sono ovviamente di un'altra era, su 55-60 anni. Mettiamo subito giù Giulio. Rispetto a noi giovani. Dell'era geologica, di quando stavano nelle caverne, dice lei, era già fresco, non c'era bisogno di mettere l'aria condizionata, no? Beh sì, in macchina non erano abituati, cioè è una cosa un po' fatina. Va bene, no? Giulio, non si addentri in questo discorso scivolosissimo, veniamo al sodo. Sì, semplicemente 3 anni fa abbiamo fatto mettere 2 climatizzatori, cioè uno per tutte le stanze della casa, il salotto, e uno per la camera mia, perché passo molto tempo in camera perché lavoro anche a casa spesso, e quello che ho notato è che loro non accendono praticamente mai. Mamma, perché gli dà fastidio l'aria condizionata, io lo fa perché vuole risparmiare, e fatto sta che non lo utilizzano mai. Infatti non capisco perché abbiamo fatto la spesa di installarlo. Saranno anche fatti del papà e della mamma di Giulio, no? Insomma, qua lui dice, si vede proprio allora la differenza generazionale. Vabbè, insomma, un commento pittoresco sul tema di questa mattina, però vabbè. Grazie, è anche Giulio, vero che loro certamente, non avendo mai avuto l'aria condizionata, i nostri genitori in vita loro stanno tutti bene per fortuna e non c'è proprio questa mancanza, diciamo, attualmente. Andiamo ancora a parlare di soldi per qualche altro minuto? Assolutamente sì. Con il nostro Luca Falco, l'uomo di tutte le stagioni in realtà questa mattina. Lo possiamo definire Donato da Como, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Secondo lei l'aria condizionata che effetto produce sul naso? Ci ho pensato anch'io tutto il tempo. Devo dire che penso che mi attanagli gli odori. Sicuramente il dottore mi fucilerà per questa risposta. Ma è qua, guardi, bello sorridente e però tranquillo. È vero che tutti e tre gli effetti tendono a essere un po' veri, cioè non ce n'è uno veramente falso, intendo dire. Ecco perché è più difficile la risposta. Andiamo alla domanda tecnica, sì. È questa. Dunque, io attualmente ho un condizionatore portatile che non è un inverter, e di effetti sul lato energetico è drammatico. Cosa vuol dire portatile? Se lo porta da una stanza all'altra? Sono i condizionatori per chi non ha mai potuto installarsi in uno fisso, hanno un tubo che si collega a una finestra, ma hanno un'efficienza energetica che oserei definire drammatica, nel senso che sono pessimi, consumano moltissimo, sono rumorosissimi e la temperatura si abbassa veramente pochissimo. Sì, uno guarda quasi quasi va a farsi un weekend in montagna e risparmia. Esatto. La mia domanda era questa: siccome di molti condizionatori esiste la possibilità di avere più split, cioè un unico motore e magari 2 o più unità che raffreddano, mi chiedevo se da un punto di vista energetico e pratico fosse conveniente avere un'unica unità e più split, o piuttosto avere diversi condizionatori separati in caso di un edificio relativo, di un appartamento ma grande sopra i 100 metri quadri. Eccolo là, infatti, che poteva essere l'informazione centrale per risponderle. Luca Falco, è tutto suo, Donato. Allora, confermo che i portatili sono qualcosa di veramente preistorico. Sì, non tanto preistorico, sono l'unica soluzione che si ha quando non c'è altra possibilità. Ora, un impianto d'aria condizionata va verificato, va installato, va controllato sul posto con il cliente e con le esigenze del cliente, perché sennò se un impianto è sbagliato, ma anche un impianto di nuova generazione, rischia veramente di creare solamente un consumo elettrico senza darne un beneficio. Perché pensiamo anche solo al posizionamento di un impianto, se non funziona correttamente non dà il benessere e consuma solo della corrente. Quindi fondamentalmente quelle sono le regole principali per un impianto d'aria condizionata. E questo è quanto Donato doveva sapere? Io mi sono perso un pezzo di domanda. Ah, ecco, allora ce lo poteva confessare subito che mantenevamo Donato con noi. È più conveniente avere un condizionatore con due split o meglio un condizionatore per stanza? Allora, dipende sempre dal tipo di impianto, perché i condizionatori multi-split o anche i refrigeratori d'acqua o i chiller sono impianti che di solito hanno un'efficienza migliore e distribuendo il calore nelle varie stanze a seconda dell'utilizzo consumano anche comunque meno corrente. Per quello è molto legato al sopralluogo ed è molto legato all'esigenza, perché per esempio noi abbiamo una casa con una stanza esposta, ipotizziamo a est, e un'altra esposta a sud-ovest. Quelle due stanze hanno carichi termici diversi in momenti della giornata diverse. Certo. E bisogna vedere quando viene utilizzato. Sicuramente al momento di una ristrutturazione di un'abitazione conviene prevedere un impianto d'aria condizionata. Ce ne di vari tipi. Questo ci permette di poter mantenere le caratteristiche climatiche della casa nel migliore delle condizioni. Sì, però non era il caso appunto di Donato, perché invece non mi pare avesse fatto Nicoletta riferimento ad un'imminente ristrutturazione dell'abitazione. No. Una casa molto grande però. Allora, andiamo a Chiara da Bergamo? Andiamo a sentire i suggerimenti per chi è in viaggio. È vero, sono le 11.45, si va! Cuore e denari. Sì, non c'è niente di male nella scienza. Oh. Sai, io preferisco... Tra l'aria condizionata e il Papa scelgo l'aria condizionata. Tra poco parleremo anche di come utilizzare l'aria condizionata senza pagare alcun conto. Noi, purtroppo i denari si pagano, ma almeno che sia un modo per rinfrescare gli ambienti che produca in noi benessere e non malessere. Chi per come dire, avere un impatto un po' più contenuto gli effetti dell'aria condizionata utilizza la soluzione del deumidificatore. Chiara da Bergamo, in realtà forse l'aria va umidificata quando si mette l'aria condizionata, non so qual è la relazione bene, ma adesso ce la facciamo spiegare dai nostri esperti. Chiara, buongiorno. Ciao a tutti. No, telefonavo per una cosa in particolare, per un ambiente dove vivono persone anziane, sì, che ha bisogno di essere deumidificato in questa stagione. Aria condizionata non ne vogliono sentir parlare per il costo e anche perché non la utilizzerebbero. Cioè, sì. E chiedevo appunto, ho sentito parlare adesso poi anche di chiller, umidificatori, chiedevo una soluzione adeguata insomma per persone per anziane deumidificare, esatto. Ecco. Chiara, la ringrazio, ultima domanda per oggi per Luca Falco, che cosa suggeriamo alla nostra ascoltatrice da Bergamo? Questa volta la domanda l'ho sentita per intero, prima era andata via il sonoro proprio quando terminava la domanda. Non c'è nessun problema. Allora, bisogna intanto una veloce premessa: l'ambiente non va né raffreddato né riscaldato, l'ambiente va climatizzato. Quando si parla di climatizzatore in realtà si parla di qualcosa di un pochino più ampio, ovvero qualcosa che abbia anche la possibilità di controllare l'umidità sia nel deumidificare che nell'umidificare. Tutti i climatizzatori però che vengono venduti piccolini per ambiente domestico hanno solo la possibilità di deumidificare durante il periodo estivo o primaverile. E per deumidificare sostanzialmente si può utilizzare la stessa macchina che si utilizza per la climatizzazione, perché hanno di solito una funzione di deumidificazione. Questa cosa fa? Ha un flusso d'aria molto più dolce, molto più lento, quindi l'aria nel passaggio attraverso, io lo chiamo radiatore, il radiatore del climatizzatore. Però guardi Falco, la interrompo subito, mi pare di capire che nel caso di Chiara di nessun impianto si vuol sentir parlare in questa abitazione con delle persone anziane. La soluzione più semplice per deumidificare l'ambiente qual è? Allora, il deumidificatore, esistono dei deumidificatori portatili, però questi in realtà in qualche modo aumentano di un qualche grado la temperatura ambiente, per cui non c'è altra possibilità se non o un climatizzatore portatile, quindi tipo quello di cui parlava prima il signore, oppure... E le belle pale, quelle pale a soffitto che girano... Non ci piacciono? A questo punto il movimento dell'aria va benissimo, non controlla però l'umidità. Cioè, ma io se metto il dimmelo tu. Deumidificatore. Ok, quello che dice. E poi metto le pale? Il deumidificatore in realtà va ad aumentarmi nel tempo la temperatura dell'ambiente in cui è installato. Perché insomma, quindi non è la soluzione. Insomma, la soluzione non c'è. Allora, facciamo una cosa, facciamo scrivere a Chiara se vuole una mail un po' più dettagliata, magari con qualche caratteristica ulteriore sulla casa, su questo nucleo familiare che andrebbe assistito con il deumidificatore. Luca Falco ci risponderà in privato, intanto noi lo salutiamo e gli auguriamo una buona estate. Io vi ringrazio di avermi ospitato e al prossimo alla prossima stagione. Grazie. Lo sai che tra l'altro Luca Falco è un grande scrittore. Sì, abbiamo, avevi detto. Abbiamo presentato anche il suo romanzo La rosa e no, La vite e la rosa, com'è Luca Falco? La vite e la rosa, esatto. Perfetto. La vite e la rosa, esatto. Grazie, grazie molte, grazie e a presto. Grazie, anche buona scrittura. Salutiamo il nostro prossimo ospite, il dottor Mauro Mocci, medico dell'Associazione Medici per l'Ambiente, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, bentrovati. Bentrovata anche a lei. Io avrei bisogno che lei ci desse delle regole molto semplici per avere dall'aria condizionata solo benefici. È possibile? Credo di sì. L'aria condizionata, se usata bene, se utilizzata con un buon senso, sicuramente porta dei vantaggi. Non bisogna demonizzarla, però... Se invece usata male, è dannosa per vari tipi di aspetti. Per cui bisogna attenersi ad alcune regole fondamentali. Sì. Intanto la temperatura non deve mai scendere sotto determinati valori. Diciamo che la regola non dovrebbe essere non una differenza che va dai 5, 6, massimo 7 gradi rispetto all'esterno. Per cui se esternamente abbiamo delle temperature molto alte, non possiamo pretendere di tenere la casa a temperature bassissime. Quindi se fuori sono 30 gradi, 24-25, a casa non di più, gradi, non 22. Esatto. Ecco. Non 22 nemmeno 20, perché il passaggio di temperatura, perché poi dovremmo uscire qualche volta e rientrare, beh, certo. Questo passaggio con il freddo provoca una vasocostrizione, come veniva detto prima. Questa vasocostrizione, cioè una riduzione del flusso di sangue a livello degli organi, e questa cosa abbassa le difese immunologiche e quindi noi siamo esposti poi all'attacco di qualsiasi batterio. Allora dobbiamo evitare inoltre danno sui muscoli, perché sappiamo che i muscoli risentono del freddo e quindi torcicollo, colpo della strega. Ecco. Esatto, io ho un braccio che non riesco più a muovere, che mi fa molto male, rimane bloccati, ma il dottor Franzetti non mi cura, anche se qui in studio se la ride perché io male, ma lei anche al raffreddore. Sì, anch'io. Quindi anche lei è stata... Danni d'esposizione, certo, perché purtroppo siamo condannati, a casa nostra possiamo regolarlo, ma quando entriamo in punti, in luoghi dove l'aria condizionata non siamo noi a decidere la temperatura, supermercati, negozi, e lì purtroppo... Ecco, scusate, posso dare il mio consiglio soprattutto alle amiche che ci seguono a casa? Sì. Io sono molto freddolosa e soffro l'aria condizionata, come tutte le donne. Sì. Allora, nella mia grande borsa da Mary Poppins io metto sempre uno di quei maglioncini leggeri coprispalle, le mie figlie mi naturalmente ridono, guarda la mamma, si porta la copertina, eccetera, ma io me lo metto e me lo tolgo, vado al supermercato, zuc, mi metto il mio... Benissimo. Esco via, faccia anche lei. Io porto una sciarpa. Ecco, vede? Qualche cosa in qualche modo. Senta, dottor Mocci, parliamo anche dei filtri. Bisogna. Allora, ecco. Dicevo, la temperatura non deve essere esageratamente bassa, la direzione del flusso non deve essere mai orientata sulle persone. La distanza, dice, non essere almeno 2-3 metri di distanza da dove è messo il condizionatore, sì. E mai direttamente sulla persona. Bisogna tenere puliti i filtri, ogni inizio di stagione andrebbe fatta una pulizia dei filtri, è anche abbastanza semplice, non è complicata, basta aspirare un po' quella polvere che si forma sopra e poi lavarlo. Io consiglio con acqua calda e non prodotti chimici, perché poi li ritroveremo. Perché la pulizia? Perché dentro questi filtri purtroppo si annida di tutto, si annidano allergeni, acari, muffe, batteri, e uno dei batteri temibili è la legionella, sapete tutti, ormai tutti conoscono questa legionella pneumofila, che cresce in ambienti dove c'è l'umidità, e quindi questo condizionatore, accendendolo e non avendo ben puliti i filtri, potrebbe portarci dentro questa legionella. Che Li hai puliti i filtri? Pulitissimi, quindi, anche per il lavoro che ho detto prima, avendolo dovuto disinstallare e reinstallare, è stata l'occasione appunto per fare il controllo. Quindi andrebbe fatto annualmente una pulizia dei filtri, perché altrimenti noi avremo un ricircolo di questi batteri, di queste polveri, che andrebbero ad annidarsi dentro, e in queste fanno una sorta di biofilm, questo biofilm che è come un allevamento di batteri, che poi ce li riportiamo dentro, ma soprattutto gli allergeni per le persone allergiche, i pollini si annidano là dentro, perché il condizionatore prende aria dall'esterno. Senta, dottor Mocci, diamo anche un consiglio per chi va in auto e accende, naturalmente. Assolutamente, gli stessi queste precauzioni. È meglio finestrino dove si può, aria condizionata. Quando si può aria naturale, anche quella non direttamente sul volto, perché lì abbiamo vediamo spesso delle paresi da frigore, quindi aria fredda che apriamo va a finestrini battere. Sì, meglio aprire posteriori per entrare aria posteriore, che non vada direttamente sul corpo, quindi non è un problema per spettinare la chioma, e anche in questo caso, anche nelle autovetture, non portare temperature bassissime e pulire i filtri, a maggior ragione quelle delle macchine devono essere ancora più puliti. Perché cambiati, ovviamente nel caso della macchina non si fa il lavaggio del filtro ma si cambia il filtro, perché stando nel traffico si accumula di tutto e poi ce lo butta dentro l'abitacolo e viene riciclato all'interno dell'abitacolo, quindi un'attenzione maggiore per quello che arriva, cosa che purtroppo in pochi fanno. Esattamente, infatti stavo proprio pensando che è proprio un lavoro obbligatorio. Sfido. Quando si fa la revisione dovrebbero cambiare i filtri. Ecco, dovrebbe essere obbligatorio. Dottor Mocci, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro di guarire presto dal suo raffreddore e anche io spero di recuperare presto l'uso del braccio destro. Io ho recuperato, posso solo leggere 3 secondi, installatore. Ci stanno facendo no. Fabrizio D'Aleco, gli rispondo dopo. Cuore e denari. Che c'è? Gola, vedere, come rossa, fumi? Sì, è meglio, già litigo dalla mattina alla sera con mio marito che fuma tanto. Ecco, è questo, vuoi guarire? Sì. Non litiga più con tuo marito. Che devo fare? Compri il pacchetto di sigarette. E li sciacqui? Falli per lui, ciao. Il professor Tucci. Ah, il professore di violino, il violinista. Come va, professore? La lirica riprende? Ah, la lirica sì, sono io che non mi riprendo. Asma, professore. Sentire? Tossisci? Alt! Tossisci? Alt! Respira forte? Alt! Non respirare? Ecco là, le lezioni le fai? Sì, un giorno sì, un giorno no. Quest'estate mare e sole, terapia solare. E per quel tinticarello in gola? Dai da barba. La barba? Cosa c'entra la barba? Ma lui è fantastico, io tutte le volte che lo ascolto rido. Ma com'è che siamo ammalati in estate? Dottor Franzetti, buongiorno e ribuongiorno. La gola, sì. Ma noi abbiamo, nella prima parte abbiamo, della trasmissione abbiamo lanciato il nostro quizzettone, sì, che possiamo titolare come il mio naso e l'aria condizionata, che gli succede? Ma il problema è che anche la gola si è rossa, prude, pizzica, fa male. E quindi, insomma, in piena estate ci ritroviamo a fare i conti con dei malanni che sono molto simili a quelle che su cui, in come cui dire ci, anche la febbre. Ci confrontiamo in inverno, i malanni di stagione, anche di stagione intesa l'estate. Certo, perché diciamo che ci sono dei fattori ambientali che intervengono in maniera importante rispetto all'organismo, che sono non tanto l'aria condizionata in sé, ma sono gli sbalzi di temperatura, gli sbalzi di umidità, i cambiamenti di ambiente, il vento spesso anche, e spesso tutto ciò avviene in una situazione, in un precario equilibrio, perché chi sta peggio in estate è di solito chi normalmente ha delle situazioni croniche che riesce a bilanciare quando il clima, diciamo così, è meno aggressivo, e non riesce più a bilanciare quando passa da iperumido a secco a caldo freddo. In queste sbalze qui uno è come se fosse scioccato, sì, no? E quindi come si diceva anche prima, si va incontro dei fenomeni di vasocostrizione, vasodilatazione, di cali immunitari, di cali di secrezione che diventano dannosi e fastidiosi per il benessere. 800 24 00 24, se state pagando l'aria condizionata, il caldo, il colpo d'aria, e volete parlarne con noi insieme al dottor Franzetti, ma anche se volete rispondere al quizzettone. Il dottor Franzetti viene qua per fare i quizzettoni, sai? E d'altronde sai, piacciono, ascolta, molto. Ha capito che in questa maniera cattura subito l'attenzione, ma soprattutto e mi diverto io. Allora, se lo vogliamo ripetere, abbiamo parlato il naso e l'aria condizionata. Che succede al vostro naso? Opzione numero 1, il naso. Cioè la percezione del naso quando entra in contatto con l'aria condizionata, un naso sano. Opzione 1, il naso respira meglio perché si vasocostringe tutto, anche i turbinati. Opzione numero 2, il naso piange, cioè cola. Opzione numero 3, viene alterato l'olfatto. Andiamo a sentire un po' di nostri ascoltatori che vogliono parlare col dottor Franzetti, lamentarsi un po' della loro gola, del loro naso. C'è chi ricorda ovviamente che anche in aereo e in treno bisogna proteggersi un po', perché lì evidentemente appunto spesso l'aria è proprio temperature bassissime. Chi proviamo a sentire? Vediamo un po'. Franco da Catania? Certamente, andiamo al sud. Buongiorno! La nostra amata Sicilia. Franco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ragazzi, è sempre un piacere sentirvi. Anche noi la sentiamo molto volentieri. Se lei interviene in questo modo. E se ci chiama ragazze, eccoci qua. Tra l'altro voi iniziate il programma quando io finisco il mio, quindi praticamente è impossibile non sentirvi. Perché? Cosa finisce il suo? Il mio programma, io sono uno speaker radiofonico e la mia domanda era legata proprio all'utilizzo dell'aria condizionata. Ne avrei due praticamente, se posso. Certamente. La prima è che facendo il vostro stesso lavoro, sì, l'aria condizionata per le corde vocali può essere assolutamente deleteria. Sì. Mm-hmm. E poi la mia era anche una curiosità: da quando 3 anni fa smisi di fumare, il mio corpo è come se si termoregolarizzasse meglio. Cioè, non ho più bisogno dell'aria condizionata, sudo meno, sto meglio, quindi volevo capire se c'era una relazione fra lo smettere di fumare e l'aria condizionata, visto che non ne faccio praticamente più uso e prima era praticamente indispensabile. Franco, ma dove vai in onda lei e come si chiama il suo programma? Il mio programma si chiama Sarò Franco. Sono Franco? Sarò. Carino, Sarò Franco e va in onda su Radio Fantastica tutti i giorni dalle 9 alle 11. Ma complimenti. Bene, noi possiamo dire ascoltato, perché intanto noi siamo dalle 11. Adesso domattina la chiamiamo noi e interveniamo nel suo programma. Grazie. Volentieri. Intanto Franco da Catania, dottor Franzetti, ci ha dato la possibilità di coinvolgere gli ascoltatori dicendo a loro, a volte basta la parola, no, per localizzare il problema. E quindi se i nostri amici ci chiamano e parlano, lei potrà anche capire come sta la loro gola e con un po' di approssimazione anche le loro corde vocali. Dottor Franzetti, come possiamo aiutare Franco? Allora, l'aria condizionata è un'aria che esce da un determinato bocchettone, da un determinato punto. La prima cosa è assolutamente non esporsi al flusso dell'aria condizionata, perché un conto è l'effetto climatizzante e un conto è l'aria condizionata addosso, perché questo è come se equivalesse a un vento. Certo. E questo sicuramente crea uno sbalzo termico e uno sbalzo anche di secrezione mucosa importante. Le corde vocali, è vero, risentono immediatamente dello sbalzo termico, perché si seccano, si asciugano subito e quindi vibrano di meno e tendono a gonfiarsi un pochettino, quindi la voce inevitabilmente si affatica subito. Uno, appunto, se fa un mestiere di questo tipo, deve per forza continuare a parlare, quindi forza il muscolo vocale e quindi crea una disfonia o un abbassamento di voce. E quindi la prima cosa è non esporsi agli cambiamenti di temperature importanti e al flusso aereo. Il mio consiglio è, che è un consiglio spesso usato dai cinesi, anche se non hanno grande aria condizionata in queste situazioni, è quello di bere spesso, sorseggiare delle bevande tiepide, magari che possono essere le tisane, del tè, magari con un pochino di limone all'interno, perché questo sicuramente tende a mantenere un'umidificazione e una temperatura più idonea all'interno del cavo orale, del faringe e quindi nell'esofago e quindi anche a livello della laringe. Questo è un consiglio, quindi non esporsi al flusso aereo e umidificare con bevande tiepide. L'altra questione invece del fumo è che sicuramente, qui dipende quanto uno fuma, però sicuramente l'effetto della nicotina agisce sul sistema simpatico e quindi la termoregolazione, che dipende dal sistema simpatico, in qualche modo risente dell'utilizzo cronico di nicotina e quindi questo fattore, questo miglioramento sicuramente è documentato anche biologicamente. 800 24 00 24, apriamo ancora naturalmente il microfono ai nostri ascoltatori, perché abbiamo Giuseppe che ci chiama dalla provincia di Frosinone. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Buongiorno, grazie. Pronto? Sì. Noi la stiamo sentendo, come va? Buongiorno, e niente, io stavo ascoltando la trasmissione riguardo la prima parte sulla respirazione e queste cose qui, e, diciamo, io ho un negozio dove abbiamo un impianto di aria condizionata a pompa di calore inverno-estate, lo utilizzo in maniera soft, diciamo. Soft. Per il lavoro che facciamo noi, dovendo prendere gli alimenti con le mani, in pratica la carne, abbiamo nel laboratorio un altro impianto che adoperiamo sporadicamente, e logicamente per non avere quell'effetto sudato o diciamo mal visto dal consumatore, anche per noi, utilizziamo l'aria condizionata, ma molto molto, diciamo, soft. Per quanto riguarda il mio caso specifico, per la respirazione mi sento meglio, addirittura nella cella frigorifera anche, vedo che, perché forse avrò un mio problema molto particolare per il naso chiuso, quindi diciamo, ecco, io sono... Quindi a lei l'aria condizionata libera il naso. Pazzesco. Sì, quasi come uno stick. Sì, e dopo ecco, questo non c'entra niente con il discorso, è l'ottimizzazione degli impianti di lavoro, degli uffici di lavoro. Negli uffici pubblici ci troviamo in inverno con il riscaldamento al massimo e le finestre aperte, sì. Quindi un risparmio energetico non finire, e come dicasi pure per l'estate, mettiamo lì, c'è il direttore della banca con la camicetta e l'impianto dell'aria condizionata lo stesso pure al massimo. Ecco, bisognerebbe ottimizzare queste cose. Certo, dottor Franzetti, ma il nostro amico Giuseppe ci ha detto mi si libera il naso proprio quando entro al freddo, e in questo senso, cioè, questi racconti permettono a lei di capire come sta il naso del nostro ascoltatore. Certo, come sta anche prima che entra il freddo. Esatto, e quindi dietro al quiz c'è, il dottor Franzetti le pensa tutte, un'occasione anche per individuare eventuali problemi del vostro naso. Quindi chiamateci, al di là di dare la risposta esatta, ma per raccontarci che cosa succede al vostro naso e alla vostra gola quando siete in un ambiente con aria condizionata. Dottor Franzetti. Perché infatti la premessa è che cosa succede a un naso sano, perché poi l'altra domanda potrebbe essere che cosa succede a un naso che invece ha già un problema. In questo caso c'è un miglioramento di una patologia vasomotoria che il signore ha durante le altre parti dell'anno, tant'è che è tipico di uno che lavora magari nelle celle frigorifere che quando entra si libera il naso, ma quando esce si richiude più di prima. Cioè quando torna all'umido e al caldo si ha un effetto rebound, per cui il turbinato si gonfia il doppio di come era prima, e quindi il beneficio ottenuto, allora o lo mandiamo in macelleria in Alaska, sì, no? o altrimenti bisogna comunque considerare che c'è un effetto vasomotorio non regolare in quel naso. E quindi il fenomeno fisiologico spiega il miglioramento in un naso che non è normale. Deborah, sì. A te che effetto fa l'aria condizionata? Allora, diciamo, io sono già andata di antibiotico nei primi giorni di questa settimana, per cui ero veramente a pezzi di gola, e ancora ci sono, perché comunque faccio fatica a deglutire, mi dà molto fastidio, mi secca immediatamente le vie aeree, però ormai lo so e quindi corro un po' ai ripari. Però non ci possiamo portare sempre dietro la tisanina, come dice, cioè volendo ce la possiamo anche portare dietro. Caramelline, che cosa possiamo utilizzare per rendere un po' più un effetto balsamico, diciamo, efficace? Ma secondo me il fatto di magari prendere l'abitudine, soprattutto chi sta molto in ambiente con aria condizionata, di avere un foulard che ripari da eventuali flussi d'aria, un foulard leggero, certo, che non dia fastidio, è già, può non essere il golfino di Nicoletta, ma è perché già... Perché a lei, diciamo, non piace il mio golfino, anche a lei come alle mie figlie, quelli leggeri, sono dei sottogiacca perfetti. Esatto, perché poi dipende anche dall'età, no? Adesso, ma lo meno. Allora, no, scherzo, il golfino ci sta, però magari uno non vuole portarsi il golfino, magari un foulard che copra è più pratico, è più utilizzabile. In questo modo, il fatto comunque di tenere umidificata, se non è la tisana, il fatto magari come avere adesso la bottiglietta davanti sulla scrivania, sicuramente aiuta, magari non di acqua ghiacciata. A temperatura ambiente. Vi racconto cosa mi è successo martedì grazie a questa gola. Sì. Stavo presentando un evento a Napoli, aria condizionata, non a vi palla. Dico a che livello, perché fuori poi umidissimo, sono salita, mi è venuto il colpo di tosse in gola, non riuscivo a cominciare, fra un po' mi devono soccorrere, quindi anzi mi scuso con gli organizzatori di questa manifestazione, ma ero in grossa difficoltà perché proprio vado in apnea. Eh sì, perché si avverte questo raspino in gola. Esatto. Stiamo parlando di mal di gola, di naso che colo, di naso che si apre, ma è facile anche in questa stagione proprio avere la tosse. Certo, perché la secchezza delle mucose è micidiale, soprattutto quando uno è in un determinato equilibrio, ripeto, magari uno che ha un leggerissimo reflusso gastroesofageo piuttosto che ha un metabolismo non perfetto, diciamo è come se slatentizzasse dei fastidi che non sono delle malattie, no? Al contrario, invece, quello che si diceva prima, uno che magari va incontro a uno sbalzo di temperatura importante a un'immunodepressione può sviluppare anche una forma virale o batterica. Certo, incredibile. No? E infatti il mio consiglio è quello, comunque, di non partire subito con l'antibiotico. Cioè, ma partire con l'antinfiammatorio. Perché non si fa curare da. Devo dire che Deborah si fa abbastanza curare da me, anzi, mi dà soddisfazione. Ogni tanto mi scappa. Ero però. Era via e quindi non ho potuto fare il dottor Balanzone. Esatto, ma io ho dovuto fare invece un recupero veloce perché avevo delle cose da fare. Ma spesso il recupero veloce è più fattibile con magari un goccio di cortisone, se è possibile prenderlo, piuttosto che 6-7 giorni in antibiotico. Comunque, ne farò tesoro. A proposito di schiarirsi la gola, il desiderio di schiarirsi la gola, ma anche quel senso di fastidio che avvertiamo nella deglutizione, sono sintomi, dottor Franzetti, che lei sa bene, si prestano ad una doppia lettura. Il corpo parla, lo diciamo spesso, e non mente, quindi faringite d'aria condizionata, da colpo d'aria o stress, ansia, disagio? Dottor Franzetti. Intanto dobbiamo notare una cosa, quando noi ci esponiamo a dell'aria condizionata non dobbiamo pensare solo al naso e alla gola, ma per esempio cosa ci succede nella digestione, nello stomaco, nella deglutizione, perché tutto l'aspetto digestivo, o magari abbiamo mal di pancia, punto di domanda, quando siamo esposti troppo al freddo, perché tutto questo ci dice come sta dal punto di vista metabolico il nostro organismo. Se invece il disturbo è localizzato, mi punge un pochettino da una parte, oppure mi viene raspino e continuo ad avere la tossettina, ma tutto il resto invece risponde in maniera adeguata, può essere che una secchezza slatentizzi la somatizzazione di un momento di ansia o di stress. E allora a questo punto io non darei l'antibiotico, l'antinfiammatorio, eccetera, ma andrei a vedere se realmente non c'è proprio un fastidio minimo che viene slatentizzato. Antonio da Cavriglia. Cavriglia è un nome che... Dov'è Cavriglia? Che lo sapevo e mi ricorda qualcosa, ma Antonio ce lo scriverà. Ci dice che lui è un accanito sostenitore della maglia intima, di cotone in estate, di lana in inverno. I mal di gola sono un ricordo. Dottor Franzetti, lei come otorino conferma. Sì, sicuramente la maglia intima è un ritrovato molto italiano che però ha una sua ragion d'essere, nel senso che difende soprattutto dal flusso aereo, non tanto dalla temperatura, ma dallo sbalzo e dal flusso aereo la pelle, e quindi sicuramente la protegge. Allora, ricordiamo che se avete mal di gola, sul nostro Daily Lab Luca Voledo ha scritto dei rimedi naturali. Molto naturali, molto efficaci, andateli a leggere, sono sulla nostra pagina. Mentre per le telefonate, Deborah, abbiamo le risposte al quizzettone, perché se no gli ascoltatori pensano che ce lo siamo dimenticato, e invece direi di sentire Valeria e Alberto, rispettivamente da Ferrara e Padova, con le loro risposte. Dopodiché alzeremo il velo sulla risposta più vera delle altre. Come sempre abbiamo prima la donna dell'uomo, perché qua a cuore dei nari sono tutti cavalieri. Valeria da Ferrara, buongiorno. Buongiorno, signora. Allora, per me era la 2. La 2, che era il naso che cola. Perché faccio il mio, fa sempre quelle tette lì, ecco. Va bene, Valeria, grazie. Alberto, invece per lei? Ma per me era la 3. Cioè il naso sente bene gli odori. Ah, gli odori, sì. Esattamente. Sì. Ottimo, grazie ad entrambi, dottore. Allora, rulli di tamburi, abbiamo la sigla. La percezione percentualmente maggiore di un naso sano quando va incontro a uno sbalzo di temperatura è il naso che cola di più. Cioè il naso che da asciutto immediatamente tende a secernere. Se un naso non è sano, cioè tende a essere chiuso, si percepisce di più l'apertura, ma se un naso è sano l'apertura nasale è meno percepita. L'olfatto spesso può essere modificato, ma non ha un'incidenza così alta la modificazione dell'olfatto. Quindi era Valeria da Ferrara, qui faremo arrivare un libro, anzi due libri, uno di cuore e uno di denari, perché non le abbiamo chiesto la preferenza. Allora, noi ci dobbiamo salutare. Tra l'altro vi voglio dire che Cavriglia mi ha riscritto, ci ha riscritto Antonio in Toscana. Ah, per questo mi suonava bene. Mi scuso per l'ignoranza. Ma anch'io, ma insomma ci sono i nostri ascoltatori che ci provvedono. Sono attenti. Dottor Franzetti, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Le auguriamo un'ottima giornata. Esatto, io niente più antibiotico la prossima volta. Ci sentiamo con te da sola, domani ti rilascio di nuovo. E noi però ci... mercoledì sarà di nuovo con noi. Buona giornata a tutti. Cuore e denari.